GR24, il sole 24 ore. Il CIPE sblocca risorse per ILVA, nuove autostrade e sanità siciliana, oltre 5 miliardi di investimenti. I mercati ritrovano un po' di calma, borse positive, spread in calo. L'USI resta in carcere, respinta la richiesta dei difensori. Il calcio scommesse a Roma, altra giornata di patteggiamenti davanti a Palazzi, nell'inchiesta penale, nuovi interrogatori a Bari. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Via libera del Senato alla fiducia posta dal governo sul decreto legge sviluppo. I voti favorevoli sono stati 216, contrari 33, gli astenuti 4 su un totale di 254 senatori presenti. Il provvedimento, ora convertito in legge, contiene tra le altre cose misure per le infrastrutture e i bonus per l'edilizia e l'efficienza energetica. A proposito di infrastrutture, il CIPE ha sbloccato questa mattina risorse per alcuni miliardi di euro, come ci spiega in diretta da Roma Vincenzo Miglietta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Quasi due ore di riunione per il Consiglio dei Ministri convocato per una serie di adempimenti europei e di competenza del Ministero degli Esteri. Vi sarebbe stata anche un'informativa del Ministro dell'Ambiente Clini sulla questione dell'Ilva di Taranto per l'adozione di un provvedimento legislativo alla riqualificazione dell'area siderurgica pugliese. Vanno intanto nuovi fondi sbloccati dal CIPE, che si è riunito sempre stamani prima del Consiglio dei Ministri, risorse che saranno attinte da un plafond di 21 miliardi di euro totali assegnati già nell'agosto del 2011. Si dà così attuazione al protocollo d'intesa firmato la scorsa settimana. Il risanamento ambientale non riguarda solo l'area dell'impianto, ma anche il contiguo quartiere Tamburi. Anche oggi il CIPE ha dato il via libera a 5 miliardi di lavori di soldi ben determinati per le infrastrutture, ha spiegato il ministro dello sviluppo economico Passera. Vi rientra il progetto definitivo dei lotti 2, 3, 5A, 6B dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, con un costo pari a 1,3 miliardi di euro. Via libera anche al progetto definitivo della nuova pontina che agevolerà la direttrice Roma Latina. Il CIPE ha sbloccato infine oltre 343 milioni per la copertura del debito sanitario della regione Sicilia. E da Roma è tutto. A proposito dell'Ilva, è in corso davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Taranto l'udienza porte chiuse sui ricorsi presentati dall'Ilva contro il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico. Presentato anche un ricorso dagli 8 dirigenti ed ex dirigenti dell'Ilva arrestati il 26 luglio, attualmente agli arresti domiciliari. La decisione dei giudici dovrà essere depositata entro giovedì 9 agosto. Sentiamo come vanno i mercati, sembra una giornata positiva. In diretta Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono già state cancellate tutte le preoccupazioni emerse ieri pomeriggio dopo la riunione della Banca Centrale Europea. Le borse rimbalzano e praticamente recuperano tutto, anzi Milano fa ancora meglio perché fa più 5% adesso sul FTSE MIB, più 2,5 punti a Parigi e Francoforte, Londra più 1,34, l'euro sul dollaro a 1,2288, lo spread fra BTP e Bund ancora in discesa a 476 punti base. Mercato davvero strano, ieri a picco dopo le dichiarazioni di Mario Draghi, questa mattina sembrano non essere più tenute in considerazione in alcun modo da parte degli investitori. Peraltro è arrivato anche un nuovo monito da parte del Fondo Monetario Internazionale, che parla sempre più esplicitamente di un contagio ormai conclamato in Europa, ma il mercato oggi si disinteressa di tutto e aspetta il dato macroeconomico che arriverà nel primo pomeriggio, il dato sulla disoccupazione americana che verrà diffuso alle 14:30. Volano le banche a Piazza Affari, questo è naturalmente in merito dello spread che si è ridotto sensibilmente di nuovo. I migliori titoli Mediolanum più 11, poi Intesa San Paolo e Unicredit che guadagnano 8 punti. Oggi i gruppi diffondono i loro conti e direi che per ora è tutto. Grazie Deborah, buon lavoro. Adesso cambiamo argomento. Resta in carcere Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, accusato di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita. È stata infatti respinta questa mattina la richiesta di scarcerazione dei difensori del senatore. È stato liberato ieri sera Alessandro Spadotto, il carabiniere italiano addetto alla sicurezza dell'ambasciata italiana a Sanaa, nello Yemen, sequestrato il 29 luglio. Il militare è in volo per rientrare in Italia, dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio. Parliamo della pena di morte, 5.000 esecuzioni nel 2011, lo dice il rapporto annuale di Nessuno Tocchi Caino. L'anno scorso nel mondo sono state almeno 5.000 le esecuzioni capitali, quasi 1.000 in meno rispetto al 2010. Cina, Iran e Arabia Saudita i primi tre paesi boia. sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto annuale sulla pena di morte nel mondo redatto da Nessuno Tocchi Caino e presentato a Roma. 155 paesi hanno deciso per legge o in pratica di abolire la pena di morte. Tra questi 99 totalmente abolizionisti, 7 abolizionisti per i crimini ordinari, altri hanno attuato moratorio o sono abolizionisti di fatto. Unico paese industrializzato e democratico insieme agli Stati Uniti che applica ancora la pena estrema è il Giappone. E proprio poche ore fa a Tokyo e Osaka sono stati giustiziati 2 condannati per omicidio, 2 uomini di 40 e 31 anni. Il Giappone fa salire sulla forca i condannati a morte senza darne alcun preavviso né ai condannati né ai familiari e senza alcun testimone, modalità che le organizzazioni a tutela dei diritti civili giudicano particolarmente crudeli. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Siria si continua a combattere mentre nelle prossime ore l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York si prepara a votare una condanna puramente formale del Consiglio di Sicurezza che i paesi arabi criticano per non aver preso nessun provvedimento e per quindi non essere intervenuto a fermare le violenze. Sentiamo il servizio. Somigliano molto a lacrime di coccodrillo quelle che Cina e Russia stanno versando per la decisione di Kofi Annan di gettare la spugna. In fondo la missione dell'ex segretario generale dell'ONU era segnata fin dal principio. Pechino e Mosca hanno sempre ostacolato azioni decisive e per questo oggi l'Assemblea voterà una risoluzione di condanna nei confronti del Consiglio di Sicurezza. Un voto formale, certo, ma in grado di dimostrare che la comunità internazionale avrebbe voluto agire con più forza e maggiore determinazione, bloccata ogni volta dai veti. Del resto le parole di Annan non lasciano spazio a dubbi. L'assenza di unità nel Consiglio di Sicurezza ha minato le basi del mio incarico, ha detto l'ormai ex inviato speciale. Assad ha continuato a schierare l'esercito, a bombardare la popolazione. Decine i civili uccisi ieri a Hama, oltre 20 i morti nel campo profughi palestinese di Yarmouk, alla periferia della capitale. La strada da qui in avanti sembra segnata. Il presidente Obama ha firmato l'autorizzazione ai servizi segreti per aiutare l'opposizione nella lotta contro il regime. Ufficialmente si tratta solo di sostegno umanitario ed economico, sono escluse le armi, che però potrebbero arrivare dai paesi vicini. E intanto la Russia sta inviando 3 portaerei nel porto siriano di Tartus. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso cambiamo argomento, parliamo delle Olimpiadi di Londra 2012. Buongiorno a Dario Ricci, in collegamento con noi da Londra. Ciao Dario. Sì, buongiorno Enrico da Londra, andiamo subito agli aggiornamenti perché si sono svolte finali importanti che hanno visto protagonisti gli azzurri. Purtroppo non è arrivata la medaglia in cui speravamo nel canottaggio nazionale del 200, Mornati e Carboncini hanno lottato fino all'ultimo metro per salire sul podio, ma si sono fermati al quarto posto nella gara vinta dall'equipaggio neozelandese davanti alla Francia e alla Gran Bretagna. E si sta svolgendo attualmente qui al poligono delle Royal Artillery Barracks, dove mi trovo, la finale della carabina 50 metri a terra con Nicolò Campriani che dopo l'argento dai 10 metri circa il bis. Attualmente l'azzurro è sesto nella gara condotta dal bielorusso Martinov, che nella qualificazione ha fatto segnare anche il nuovo record del mondo. Siamo circa a metà gara e Campriani però è abbastanza vicino al terzo posto. Speriamo che la sua mira possa regalarci un'altra medaglia. In pedana anche nella prova squadre della sciabola l'Italia, che sta attualmente affrontando la Bielorussia nel primo turno del torneo che vedrà la finale alle 19:45 ora locale. A te la linea, Enrico. Grazie Dario, allora ci aggiorniamo più tardi, magari già nell'edizione delle 14 di GR24. Adesso parliamo ancora di sport, ma di tutt'altro genere di notizie ci occupiamo. Il processo sportivo per le scommesse nel calcio, ecco quelle che sono le ultime notizie, le ultime novità in diretta in studio. Carlo Genta, ciao Carlo, buongiorno. Ciao Enrico, chiamiamolo sport se ci pare, in realtà trattasi di processi, di patteggiamenti, di squalifiche, giorno di patteggiamenti ancora con Palazzi. La disciplinare ha considerato congrue le richieste di patteggiamento di Palazzi, ad esempio Masiello, ex calciatore del Bari, 26 mesi di squalifica, 5 punti di penalizzazione al Bari, 1 alla Sampdoria, poi altri giocatori, Parisi 2 anni, Rossi 1 anno e 8 mesi, c'è anche un allenatore noto, Bortolo Muti, 4 mesi, sempre frutto del patteggiamento. Questo quanto accade a Roma, al Foro Italico e sul fronte sportivo. Poi c'è il fronte delle indagini penali e questa mattina a Bari sono stati ascoltati dai carabinieri l'interista Ranocchia e il portiere del Bologna, Gillet. Ranocchia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dunque, questo è ciò che sta accadendo in quest'altra giornata piuttosto convulsa, Enrico. Bene, grazie Carlo, buon lavoro, ti sentiamo più tardi alle 14 all'interno di A Tempo di Sport. Adesso parliamo dell'Inter, perché sembrava che ci fosse un investimento, un interesse da parte dei cinesi, invece le cose non vanno in questo modo. Ecco quali sono le novità. La China Railway Construction Corporation ha smentito di aver siglato un accordo con l'Inter per l'acquisto del 15% delle quote azionarie del club nerazzurro. Lo ha annunciato la stessa impresa di costruzioni, seconda per dimensioni in Cina, in un comunicato pubblicato sul proprio sito e diffuso alla borsa di Shanghai. Nel comunicato è scritto che il gruppo di investitori cinesi di cui si parla sul sito ufficiale dell'Inter riguardo all'acquisto di quote azionarie del club non comprende la China Railway Construction Corporation, né alcuna delle sue controllate. Diverso il discorso sul nuovo stadio. Sarebbe stata infatti una delle sue controllate, la China Railway 15 Bureau Group, ad aver avuto colloqui con la società di Massimo Moratti per la costruzione di un nuovo impianto a San Donato. Ma su questo l'annuncio ufficiale arriverà solo dopo la formalizzazione dell'accordo, che stamani tra l'altro è stato criticato in un editoriale del China Daily. Intanto, come ribadiscono in ambienti vicini all'Inter, proseguono gli incontri con gli investitori cinesi, di cui rimane ancora riservata l'identità. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mini sciopero questa mattina fino alle 11 dei balneari italiani per protestare contro le aste delle concessioni demaniali previste dall'Unione Europea con la ormai famosa direttiva Bolkestein a partire dal 1 gennaio 2016. Il ministro al turismo, Piero Gnudi, così risponde a Radio 24 in un'intervista andata in onda questa mattina effettuata da Gigi Donelli. La cosiddetta Bolkestein, che è una direttiva che interessa decine di settori, fra i quali anche le concessioni demaniali. L'Italia non era in linea con questa direttiva e si è stata aperta una procedura di infrazione, il nostro governo l'ha chiusa impegnandosi a emanare entro 15 mesi dal dicembre scorso norme per modificare questo utilizzo delle concessioni demaniali. Ecco, noi stiamo preparando queste norme, nessuno del governo vuole punire i cosiddetti bagnini. Noi sappiamo benissimo che il turismo balneare rappresenta una grande fetta del nostro turismo. Quindi cercheremo di interpretare le norme europee in modo che sia anzi l'occasione per stabilizzare il settore e per far sì che nel settore si possa investire in modo di offrire le nostre spiagge, i nostri stabilimenti balneari che siano sempre più attraenti per i nostri turisti. Adesso parliamo della politica, nonostante sia necessario e viene ribadito da più parti un accordo per riformare la legge elettorale, sembra che per i partiti, soprattutto a sinistra, la priorità sia la ricerca di alleanze. Ecco le ultime novità. Parte dal territorio, la controffensiva antigrillo, PD e SEL affilano le armi contro l'avanzare dell'antipolitica e preparano la lista civica dei sindaci. Un'operazione affidata al sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, il quale organizzerà il cosiddetto Movimento Arancione. Ne faranno parte sicuramente Massimo Zedda, primo cittadino di Cagliari, Michele Emiliano di Bari e forse il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, se deciderà di non seguire Di Pietro. Un'alleanza virtuosa, così scrive Pisapia in una nota al termine dell'incontro di mercoledì tra Bersani e Vendola, che unisca le forze politiche e le espressioni di impegno civile e sociali presenti sul territorio e tutti quei cittadini che intendono impegnarsi per una svolta anche culturale. Insomma, una lista della società civile con volti nuovi che dovrebbe raccogliere uno schieramento largo di elettori, superando le barriere di destra e sinistra, che diventi punto di riferimento anche per i moderati, come avvenne per le elezioni amministrative dove Pisapia a sorpresa sbancò il feudo del berlusconismo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sono le 13:14 minuti, è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Paglierini, grazie anche a Roberto Scaltritti che si è occupato della parte tecnica. Vi lasciamo con Giampaolo Musumeci con Nessun luogo è lontano. Tra poco, dopo la viabilità, il giornale radio torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.